Vai, quando tu parli, ricordati. Sta vicino, Ecco. vicino. Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Aquila, trasmettendo dalla Galleria San Lorenzo, concessaci dalla benevolenza del santo subito Stefano Neri, che anche oggi ringraziamo. Abbiamo quest'oggi con noi un ospite, un tifoso che rappresenta quel motto, quel mantra che si ripete spesso in relazione alla Montevarchinità, alla passione per l'Aquila, di padre in figlio, non è vero Fumino? È proprio vero. Intanto io ringrazio anche il nostro regista di stasera, ovvero Franco Zeffirelli, grazie maestro di essere con noi. Julian, dicevi proprio bene, e rappresenta questo modo di dire che è già venuto fuori altre volte rispetto al nostro cercare la Montevarchinità con questa trasmissione. Ma ce lo dirà direttamente lui dai microfoni di Radio Big World. Benvenuto Damiano Borzi. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. La prima cosa da dire è forza Monte. Poi, comunque sì, è vero, io sono il classico esempio di padre e figlio. Perlomeno per ora sì. Bene Damiano, tra l'altro è importante dire che Damiano è probabilmente uno dei fans storici del volo dell'Aquila, perché io credo già dopo la seconda puntata venne da me al bar a farci complimenti per il format interessante. Damiano, raccontaci per iniziare le origini della tua passione per i colori rosso-blu. Bah, senti, intanto ti dico che siamo veramente all'origine per quanto riguarda la mia vita, perché è scoppiato subito l'amore, perché il mio babbo è assiduo frequentatore dello stadio e di conseguenza mi ha attaccato la malattia, poi la squadra, gli allenamenti, e da lì è un amore ininterrotto da 30 e rotti anni, insomma. Qualcosina, insomma, inizia a aver visto, diciamo. Tuttora va avanti, dai. Mentre invece, proprio in relazione a questa questione di padre in figlio, oltre al rapporto appunto con tuo padre, raccontaci anche cosa sta succedendo da quando anche te sei diventato padre. Eh sì, ormai insomma sono già 12 anni, Giulio, il mio figliolo, anche lui chiaramente non poteva che vedere rotolare il pallone, e sicché si è deciso di vestire questa maglia insieme. Non senza difficoltà, perché alla fine noi non stiamo più a Montevarchi, insomma siamo vicino, però alla fine lui era entusiasta di provare, e da cosa nasce cosa, e tuttora ancora insegue il pallone con questa maglia addosso, diciamo, dai. E quanti anni hai al momento, Giulio? 12 anni. Sì. Devo dire che quasi ora o meno è quasi più attratto dalla curva che dal campo di gioco, però... Vabbè, questo è normale, rumore, colori, e comunque Fumino, questo ci dà anche occasione per iniziare a indagare questo mondo, che è quello del settore giovanile, del quale ancora non abbiamo parlato in trasmissione. Sì, ancora non ne abbiamo parlato, ma la nostra intenzione sarebbe di farlo, e stasera diciamo che in qualche modo iniziamo ad avvicinarci proprio appunto a questo mondo che è ancora per noi inesplorato. Però dicevi, Damiano, che Giulio, tuo figlio, è molto più attratto dalla curva. In effetti mi capita di vederlo certe domeniche allo stadio con te, che mi sembra proprio che si diverta tanto a stare lì nel mezzo. E un po' mi ricorda anche quello che succedeva a me quando avevo l'età di Giulio, che ero un raccattapalle del Montevarchi, perché giocando allora si andava la domenica, si poteva entrare in campo con la scusa di fare il raccattapalle, e poi in realtà almeno per me era il modo di essere lì nel mezzo a vedermi la curva e a rimanerne incantato. Giulio ha fatto anche lui questo percorso, quindi ha fatto magari il raccattapalle e poi gli è venuta la voglia di venire con te in curva, oppure con i tuoi racconti, con le tue storie, l'hai subito direttamente portato in curva? Beh, c'è da dire che Giulio è venuto prima allo stadio e poi ha iniziato a giocare a calcio. E nei primi tempi sì, c'era questa voglia di fare raccattapalle, però lo sguardo andava sempre verso la curva. Ora siamo arrivati al punto che andare alla partita vuol dire andare in curva, perché i miei amici, l'ambiente, il calore, tutto lo fa divertire molto di più e gli piace molto di più. E poi ve lo confesso, quando si fa go abbracciare il mio figliolo, insomma, è tanta roba, sicché ne sono ben contento. Poi è giusto che giochi, ma è giusto che venga anche con me. Alla fine, per ora, è bellino, è veramente bellino, ragazzi. E curiosità calcistica, in che ruolo gioca Giulio? Allora, Giulio è un esterno, è un tutta corsa. Comunque diciamo che ha fatto dall'esterno alto all'esterno basso, insomma, comunque è un uomo di fascia, diciamo, dai. Il fisico farebbe presupporre a un uomo di fascia per il momento. Mentre invece ti ricordi esattamente, domanda duplice, qual è stata la tua prima partita vista del Montevarchi e qual è stata la prima partita di Giulio a vedere il Montevarchi? Senti, la mia prima partita non te la so dire di preciso, però mi ricordo di un certo Cacciatori, quindi si parla di un campionato, insomma, non so, forse 85, 86, una cosa del genere. La prima partita che mi ricordo si perse 2-0 in casa, subito come battesimo di fuoco. E invece per Giulio è stata la parentesi Riganò, che questo Riganò faceva impazzire tutti, e allora è venuto a vedere Riganò. Da lì è partito tutto, diciamo, questo amore per questa maglia. Tutto sommato, diciamo, è stato più fortunato tuo figlio, perché per quanto le categorie a partire dall'anno in cui c'era Riganò agli anni attuali siano state differenti rispetto a quelle che hai visto te, comunque ha sempre visto un Montevarchi vincente, cosa che te probabilmente non sempre hai potuto apprezzare. Tra l'altro, per i non montevarchini, Cristian Riganò, conosciutissimo giocatore, ex Fiorentina, ex Lecce, ha giocato anche in Spagna, ha giocato a Messina, ha segnato in Serie A, ha segnato in Serie B, è arrivato a Montevarchi proprio in quella stagione in cui l'Aquila dichiarò fallimento la vecchia società. Il Montevarchi momentaneamente venne sospeso dal campionato di Serie D, se non erro, dal campionato di eccellenza, pardon, e la squadra si trasferì dietro alla società dell'Audax, provando a vincere il campionato, cosa che non riuscì, acquisendo a metà stagione Riganò, che fece una valanga di reti, perché comunque la categoria era piuttosto bassa e lui, pur non essendo in una forma smagliante, splendeva come non mai. Poi negli anni a seguire c'è stata la rifondazione della societaria, la riacquisizione del titolo sportivo che era stato tenuto da Vittorio Firli, e poi è storia recente quella dei campionati vinti e del ritorno in Serie D. Cosa ti ricordi di quell'anno di Riganò? Perché ad esempio mi ricordo delle partite viste in dei greppi veri e propri, e questo giocatore si muoveva a fatica, ma che comunque il senso di gol era intatto come negli anni d'oro vissuti da lui precedentemente. A me, ti devo dire la verità, vederlo giocare mi dava l'idea che tutti potevano giocare a pallone, perché era una cosa un po'... non so nemmeno come definirtela, però era all'antipodi vedere un colosso in quel modo toccare il pallone con tanta leggerezza. Però, cioè, perlomeno da me, che ho visto C1, C2, un sacco di campionati, voleva dire tornare un po' a respirare, perché sinceramente, per chi è stato, soprattutto penso, ma poi un po' per tutti gli sportivi, ma per chi l'ha passato in curva, in giro su un pullman, vedere il Montevarchi ridotto in quel modo faceva veramente tristezza. E ancora io ero rimasto, l'ultima partita dell'Aquila, della vecchia Aquila, è stato l'ultimo derby che si è perso il San Giovanni in casa, e quella per me è stato, si è raschiato proprio il fondo di barile, perché vedere la curva vuota, vedere fra virgolette comandare in casa nostra guarda, mi va bene anche la voce, mi ha fatto parecchio male, te lo dico sinceramente. E rivedere un gruppetto in curva, rivedere che qualcosa si muove o qualcosa non si è mai spento, era tanta roba, ecco, insomma. Sì, diciamo che effettivamente l'arrivo di Riganò a Montevarchi portò un po' di... esatto, quella frizzantezza per poter pensare di riuscire a ripartire, a ricostruire anche da un punto di vista di tifo e di pubblico una situazione che si era deteriorata tantissimo in precedenza e che era invivibile e inguardabile, Fumino. Sì, in effetti fa un po' sorridere il fatto che un calciatore così come diceva Damiano, agli antipodi dell'essere un calciatore, abbia però risvegliato o comunque fatto continuare ad ardere quel fuoco che in ogni caso a Montemarchi, come già altre persone che sono venute in trasmissione ci hanno detto, non si era mai spento. Quindi mi aggancio a questo discorso di Riganò, dei ricordi, perché la ricerca della montemarchinità passa anche attraverso i ricordi, e Damiano ti chiedo: la prima trasferta che tu hai fatto fuori dal contesto familiare, quindi hai parlato di pullman prima, quindi mi viene di chiederti: la prima volta che sei montato su un pullman organizzato da dei tifosi a Montemarchi, per andare dove? La mia prima trasferta, con gente che tuttora viene in curva, è stata a Siena, e mi ricordo siamo montati nel pullman di Giglio tutti tremanti, perché vedere tutta gente più grande o così, perché all'epoca forse 16 anni, 15 anni, un affare di genere, però sembrava essere in un film, tutta un'altra cosa, si fa le cose da grandi, e devo dire che insomma fu bellina e tuttora son belline come allora, però ecco, la prima trasferta non si scorda mai. Non sarà mica l'anno per caso in cui andammo a Siena, io mi ricordo perché c'ero, che fummo oggetto di una sassaiola dall'alto, perché ai tempi lo stadio di Siena si stava in questa specie di greppo in curva e sopra passava una stradina, e insomma da sopra ci tiravano i sassi, e si erano particolarmente arrabbiati perché qualche montemarchino, diciamo un po' più o meno goliardicamente, osò offendere il palio a Siena. Ma era proprio quell'anno lì, era un'altra occasione? La mia prima trasferta era l'anno, o un anno prima o due anni prima, però quella lì diciamo che rispecchia molto la montemarchinità secondo me, perché insomma la genialata dello stendardo, il coro, diciamo si risvegliò molto l'animo dei senesi, ecco. Devo dire che insomma siamo ripartiti da greppi della seconda categoria, ma c'è città che con greppi ci sono stati diversi anni, sicché se ne può andare fieri di questa cosa, no? Perché come ci ha anche già detto in qualche puntata fa, non mi ricordo quanto, ma un esponente della curva, a Montevarchi di amici ce ne facciamo pochi, in realtà in Toscana solo una tifoseria è considerata amica, e tutte le altre, qualsiasi fossero, erano considerati derby. E io mi ricordo anche questo periodo, infatti il periodo di Siena è questo. Adesso, secondo te, se un domani, già che ora in Serie D qualche squadra toscana la stiamo rincontrando, però forse a livello di tifoserie ancora siamo un po', diciamo, sotto a quello che noi ci ricordavamo, ma se un domani la società riuscisse ad avere la forza di fare il salto di categoria, e quindi noi come montemarchini ritrovarsi di nuovo a confrontarsi con altre realtà molto importanti della nostra regione, secondo te la montemarchinità sarebbe riproposta come era proposta 20 anni fa, oppure sarebbe cambiato qualcosa? Faccio una specie di previsione, un po' di previsioni del meteo di Montemarchi. Ma intanto spero di rivedere certe partite. Secondo me alla fine le curve, per come le vedo io, si sono un po' fermate, come se si fosse pigiato il tasto pausa, e per come la vedo io la gente che c'è andata 20 anni fa c'è tuttora. Penso che poco sarebbe cambiato, se non, va bene, un monte di restrizioni, un monte di cose che oggi non si possono più fare, ma il senso dello sfottò e il senso di appartenenza rimarrebbero tali che si rimarrebbe su coglioni, lo posso dire, spero, sempre alle solite tifoserie come sempre, perché alla fine per quello che ho visto io i piedi in testa non ce l'ha mai messi nessuno, quindi insomma un po' di rispetto in giro c'è anche per noi, dai. Poi coerentemente, se posso aggiungere, credo a Montemarchi il palio continua a farci aria, di Saracino non ne parliamo, ci sa il gioco di Pozzo, ci sa contenta di quello, quindi come allora sarà oggi, no? E per cui probabilmente lo sfottò rimarrà intatto e la rivalità allo stesso livello. Penso che Galateo si conosca bene, sicché le regole servono sempre. Sono le stesse regole della montemarchinità, le regole di Galateo alla montemarchinità. Beh, Julian, probabilmente le rivalità si ritornerebbero a vivere come tifosi. Ma insomma, Damiano non è solo un tifoso, è anche un padre, e ci ha raccontato che suo figlio gioca a calcio nel Montevarchi. E quindi la domanda che mi viene in mente di farti, proprio per capire la montevarchinità da quel punto di vista che io non conosco ma che tu conosci, è: quando hai portato tuo figlio alla scuola calcio, o dove è, come si chiama, non lo so, a Montevarchi, ma sono tutte vere queste storie che si sente sempre dire in giro, che nei campi di calcio ci sono gli avvertimenti per i genitori perché i genitori sono facinorosi mentre i figli giocano, oppure perché vanno dall'allenatore e cercano magari di far giocare il proprio figlio piuttosto che un altro, e tutte queste storie qua? Allora, senti, ti rispondo, la prendo un po' larga, perché alla fine secondo me è un discorso molto strano, perché vedere giocare il tuo figliolo non volendo, non cercando di essere il più obiettivo possibile, ma ti porta a essere un po' tifoso, diciamo, un po' parecchio tifoso. Poi tutto sta all'intelligenza delle persone e delle società. Devo dire, per il momento, fino a oggi, la nostra società su questo aspetto è molto rigorosa, cioè molto rigorosa e molto attenta anche a quello che succede fuori dal campo, non solo in campo. E quindi questo secondo me è un punto a favore della società, perché diciamo che in un certo modo ha capito quello che si cerca nei ragazzi, anche chi li porta a giocare, i ragazzi. E poi ti devo dire che alla fine sì, purtroppo a volte capita di trovare altre squadre che magari l'elemento, i due elementi che rompono le scatole più di dovuto, ecco. Però insomma, dai, ancora diciamo il calcio è molto bellino a questi livelli, si vede la passione più che i calciatori, tanta passione. E poi un discorso a parte, secondo me lo merita l'allenatore. Chi allena ragazzi inconsapevolmente o magari consapevolmente, ma in maniera soft, però allena anche i genitori, perché un allenatore che sa dove i limiti della pazienza, della competitività possono arrivare, aiuta a mantenere disteso l'ambiente, cioè non fare un dramma per una sconfitta o non far finta di aver vinto la Coppa del Mondo per una vittoria, ecco. E questo, cioè, secondo me è anche molto soggettivo da squadra a squadra, da chi l'allena e chi dirige la squadra in sé per sé, perché chiaramente se diciamo un campo vola le pedate, allo stesso tempo è sempre il tuo figliolo c'è in mezzo e un po' l'animi si scaldano. Se in campo vige la sportività, fra virgolette, poi è chiaro si va per vincere, no per correre e basta, però se vige la sportività anche il clima sugli spalti è molto più tranquillo, anche se, cioè, e devo dire che alla fine i genitori della squadra di Giulio siamo un gruppo di bischeri più che un gruppo di tifosi esagitati, ecco, ci piace più stare a ridere di due bischerate che non stare a fare processi, ecco. E tornando appunto alla passione, a quello che ci dicevi prima, in sede di preparazione della puntata ci raccontavi del fatto che nelle categorie in cui gioca Giulio gli arbitri non ci sono, e quindi ad arbitrare le partite sono di volta in volta varie persone scelte non so da chi, se dalle società ospitanti o da chi altro. Però ci hai detto che è capitato anche a te di arbitrare le partite dove giocava tuo figlio, e in quel caso ti riesce di spogliarti della maglia di padre per investire quella di arbitro, oppure lo fai ma magari preferiresti non farlo? È 2 anni che mi hanno chiesto di arbitrare ragazzi e devo dire che sotto sotto sono la persona più felice del mondo, perché mi diverto un monte a stare in mezzo a loro così. Però per quanto riguarda Giulio il discorso, diciamo, divento imparziale all'incontrario, cioè magari sono meno le cose che gli fischio o che, diciamo, gli perdono di quelle che non faccio altri ragazzi, proprio per questa storia che un voglio che si dica è il suo babbo è a vantaggio, no, è un bambino o un altro nei limiti di quello che riesco a essere obiettivo, però ecco, rimane il fatto che mi sono divertito veramente tanto a fare questa cosa e presumo che ora sia finita, perché ora da primavera un po' inizia, diciamo, il calcio vero, si inizia a 11 a tutto campo con l'arbitro ufficiale, però ecco, a volte è anche dura perché i ragazzi iniziano a crescere, le partite sono molto combattute, c'è da correre, perché c'è da correre, lo posso garantire, e a volte insomma c'è anche da farsi rispettare, perché i ragazzi insomma qualche turno sopra le righe ci va, ecco, però sono veramente felice che mi sia stata data la possibilità di fare questa cosa. Ci parlavano, ad esempio, l'abbiamo sentito in una conferenza quando venne a Montevarchi, appunto, l'ex allenatore Sannino, ora non so se è ex o si allena ancora, ma insomma, venne a fare una conferenza a Montevarchi e c'erano tantissimi ragazzi. E lui diceva del fatto che i ragazzi di 10 anni più o meno, 8-9 anni, si presentano al campo a giocare con i propri compagni, chi è vestito da Amsic, chi c'ha la cresta, chi c'ha una cosa, chi c'ha quell'altra. Ma succede anche in queste realtà, oppure Sannino parlava di realtà che ci sono lontane? Ah, guarda, noi siamo come squadra, siamo usciti da poco dall'era Bernardeschi, dal riporto di Ciuffo da una parte. L'emulazione fa parte penso dello sport, è il bello dei ragazzi, perché ancora pensano che sia tutta una favola e tante belle cose. Se per come lo vedo io, ecco, è il bello, è la cosa sana di questo sport, perché ancora è fatto di cose genuine. E una battuta veloce, poi Julian ti passo la palla, perché qui se no gioco solo io. E insomma, siccome il volo dell'Aquila scopre i segreti, grazie alle parole di Damiano abbiamo scoperto che Bernardeschi c'ha il riporto. Così giovane con il riporto. Io invece, Damiano, volevo farti una piccola domanda, però ovviamente prima ti devo chiedere se te hai giocato da giovane e giocavi all'età di Giulio. Sì. Un'altra curiosità proprio rispetto a questo argomento. Visto che anche te evidentemente hai giocato alla stessa età in cui tuo figlio sta giocando, vedi delle differenze sia nel modo dei bambini di rapportarsi verso gli arbitri o gli avversari, sia nel modo dei genitori di porsi verso la partita durante magari le azioni più concitate di gioco? Ma senti, quello che vedo io, innanzitutto sì, ho giocato e diciamo corro dietro il pallone tuttora quando ho tempo. Noi, quando si giocava noi all'età di Giulio, diciamo, eravamo fra virgolette più avvantaggiati, perché alla fine il tempo libero che avevamo 90% era ai giardini a giocare a pallone, e quindi eravamo molto, diciamo, più atletici dei ragazzi di ora, per quello che mi ricordo e per quello che penso. Però il fatto dell'arbitro magari era... Adesso giocano molto, molto, molto di più rispetto a noi, cioè la partita è parte integrante della stagione, quando noi prima magari passavamo anche 6 mesi solo d'allenamento, ecco. Ora le partite il fine settimana è denso di appuntamenti, anche infrasettimana a volte, quindi sono molto più abituati al clima partita, alla cosa. Quello che vedo magari sono un capellino più smaliziati i ragazzi, c'è più la tendenza, per l'appunto come si diceva prima, a emulare il campione, la caduta, e lo stare in terra, fa finta di essersi fatti male, il gesto diciamo da calciatore navigato, ecco, magari questa cosa sì, la noto molto di più, noi eravamo più genuini, se ti do una spinta ti do una spinta, se pigli una pedata pigli una pedata, ecco, finiva lì. Riguardo agli arbitri, magari gli arbitri di ora, per la stessa reazione dei ragazzi, tendono a fare più di che sono dovute chiamate a fare, cioè a volte si inventano cose che non esistono, fanno sofisticate o così, però diciamo in linea di massima è tutto rapportato all'età, ecco. Come giovani sono i calciatori, giovani saranno gli arbitri. Se emula un calciatore, un arbitro ci sta che emuli un altro arbitro, e quindi e alla fine è abbastanza... No, più che altro quello che mi veniva in mente è che in questi ultimi decenni, con lo sviluppo massivo, diciamo, delle partite in televisione, l'effetto che i particolari messi sotto gli occhi anche dei bambini, evidentemente guardano le partite, ha avuto sulla mente degli stessi, li porta a emulare i grandi campioni anche in quelle cose che sono piuttosto distanti da quella che dovrebbe essere l'essenza dello sport giovanile, che è fondamentalmente pedagogica e comunque sportiva nel vero senso della parola. Lo stesso mi viene in mente, anche se non ne ho esperienza, in relazione al modo di porsi dei genitori verso il campo o verso quello che accade, forse all'incontrario, perché io ad esempio ho giocato a pallacanestro, però mi ricordo all'età di Giulio i nostri genitori, i genitori degli avversari, facevano delle rumbe in tribuna a cose da pazzi, e probabilmente ciò accadeva nei campi da calcio, accadeva in altre partite, se ne parlava probabilmente molto meno ai tempo, visto che l'informazione era differente e magari con toni meno gravi di quanto forse oggi appaia per uno scambio di grida tra genitori, magari nei giornali o magari nelle televisioni. Oggi forse da questo punto di vista si tende ad ampliare la gravità di gesti che, fino a che si tratta di scambi verbali, sono tutto sommato tranquilli, rispetto a una volta che magari ci si dava anche due labbrate, ma la televisione non ne parlava e non assumeva il tono di emergenza che a tratti assume oggi quando si parla di questi argomenti. Sì, oggi tutte le cose fatte hanno degli strascichi polemici, non polemici, però comunque hanno delle ripercussioni anche nei giorni a seguire, insomma, all'evento. Quello sì, però ecco, ho detto, qui ritorno a quel discorso si faceva prima, sta molto all'intelligenza di chi guida i ragazzi, guidarli anche in questa storia di rispetto della sportività e tutte le cose che si richiedono per stare in una squadra, ecco. Mentre invece in relazione a quelle che possiamo definire le aspettative di un bambino che entra nel mondo del pallone, quanto sono cambiate rispetto ad un tempo? Inevitabilmente lo saranno, visto appunto la questione di cui parlavamo precedentemente, cioè il fatto che tutto è molto ingigantito dai media e dalla televisione e dal successo che un calciatore oggi ha anche da un punto di vista pubblicitario rispetto a 30 anni fa. Ci sono aspettative in questi bambini? C'è l'idea davvero di poter essere il Totti o il Kakà di domani? Ma senti, chiaramente frequentando lo spogliatoio così se ne sente di tutti i colori, cioè quando giocherò, quando farò, però devo dire che la cosa è più accentuata su chi ha genitori che non hanno mai frequentato un campo o uno spogliatoio. Chi i genitori a grandi livelli, piccoli, medi, infimi livelli come la stragrande maggioranza, però ha giocato, sono molto più copiati a terra, sia i genitori che i figlioli. Ecco, chi ha visto il calcio solo in TV, questa cosa si nota e si vede e si sente i discorsi che tu hai detto te ora. Mentre invece mi veniva in mente anche un altro raffronto. Mi ricordo quando venne Giorgio Garozzo che ci raccontava che lui ha iniziato a giocare per strada a Roma, un po' un'immagine come ci si immagina possa succedere in Brasile, no? Il piccolo Ronaldo della situazione, per cui poi arriva il talent scout, lo vede, decide di portarlo in una grande squadra o comunque in una squadra strutturata, e da lì poi si avvia una carriera magica. Alla stessa maniera, come vivono i bambini la possibilità, se c'è la possibilità, che possa venire qualcuno a visionarli e l'occasione eventuale di poter lasciare la squadra della città dove vivono per poter andare poi in una società più grande, magari distante? Ma senti, ti dico che persone a vedere i ragazzi ne vengono, si sente soprattutto durante tornei un po' più grandi, perché devo dire che in Montevarchi ora ha accesso a manifestazioni che qualche anno fa non veniva, diciamo, interpellata come squadra. Ora il settore giovanile, come voi vedete anche voi, insomma, sta riscuotendo notevole successo e quindi ha accesso anche a altri palcoscenici. E si sente dire che c'era il visionatore dell'Atalanta, se non il visionatore dell'Empoli. Però ecco, ti devo dire che i ragazzi, perlomeno Giulio e quelli che ho più in contatto, il 90% delle volte non lo sanno nemmeno questa cosa. Per il momento diciamo che la vivono in maniera tranquilla la cosa della squadra di futuro. Ecco, per loro, sentendo riparlare, questa è la sua squadra da qui a X anni, quello non ho mai sentito dire con questi discorsi, però sicuramente arriverà anche il momento che si faranno, perché già in squadra iniziano ad arrivare ragazzi che vengono da fuori, insomma da paesi limitrofi, però inizia questo scambio e questa integrazione con gente che non è di tuo quartiere o di tuo paese, ecco, questo sì, però per ora diciamo è ancora borderline questa cosa, ma sicuramente avverrà. E Damiano, usciamo un attimo da questo discorso del Damiano padre e torniamo a quello del Damiano tifoso, del Damiano sostenitore dei colori rosso-blu. Intanto una curiosità, tu hai un soprannome, perché ora sì, qui in radio ti chiamiamo Damiano con il tuo nome, però insomma tu a Montevarchi per più o meno tutti sei il Pera, ma questo soprannome è nato allo stadio o è nato altrove e allo stadio si è trasferito? Allora, questo soprannome ormai me lo porto dietro da un bel po'. Ti devo dire che questo soprannome è nato alle medie, in classe, ma per la cosa più innocente sì, che può succedere, perché ero un grande estimatore dei succhini alla pera. E da lì è partito Pera e non si è più fermata questa cosa. E ti devo dire che tuttora anche la mia mamma a volte mi chiama Pera, questa è una cosa. Allora Damiano, ormai che abbiamo svelato, e ormai il volo dell'Aquila svela i misteri, che il tuo soprannome Pera è nato dai fatto del succhino alla pera alle medie, raccontaci una cosa che mischia un po' l'essere il Damiano tifoso e il Damiano padre. Quindi il Pera e il Damiano, facciamo un cocktail. Allora, tu hai deciso ad un certo punto, ok, porto mio figlio in curva, un posto dove probabilmente molte persone di Montevarchi, ma come di altre parti, perché noi indaghiamo la montevarchinità e parliamo di Montevarchi, ma la nostra società è ovviamente si rispecchia nelle altre società, quindi quello che succede qua potrebbe succedere probabilmente anche da tutte le altre parti. Un posto come la curva, dove per l'immaginario collettivo, dove per convenienza si tende a pensare che sia pericoloso, che possa succedere chissà cosa, che ci siano le persone più strane del paese o della città. Tu invece questa cosa non l'hai considerata, oppure se l'hai considerata, l'hai considerata appunto superabile. Raccontaci questa cosa, questa esperienza qua. Parto da uno striscione che mi ha fatto ridere un monte, non mi ricordo la curva, c'era scritto noi siamo quelli che la mamma ti diceva di non frequentare, parto proprio da lì e ti devo dire che sinceramente penso ci sia molti più valori in quella curva o in quelle curve, perché alla fine siamo una bella fetta di popolazione, in quelle curve penso ci sia molta più dignità, solidarietà e valori che in tanti altri posti ritenuti diciamo più ok dalla società e da chi pensa. Credo che i miei amici siano più veri e senza tanti fronzoli e facciano di bene a Giulio che non tante altre persone fuori dalla curva, e quindi io sinceramente non mi sono posto nemmeno il problema, anche perché se no si doveva scegliere se andare in tribuna o in curva, e io sinceramente in tribuna e non ce la fo a vedere la partita, ve lo dico sinceramente. Comunque no, anzi, vedo che io non sono stato il primo e spero vivamente di non essere l'ultimo a portare il figliolo in curva, e vedo che tanti bambini si stanno e tante nuove, diciamo, generazioni o future leve si stanno inserendo in questo contesto, e secondo me è bello, e io ci sono stato, te l'ho detto, da quando mi ricordo qualcosa ad essere sempre stato nello stadio, eppure insomma sono arrivato né bene né male, ma sono arrivato a questa età, ecco. E appunto tu che l'hai vista quando avevi 10 anni ed ora che la vivi da ultra trentenne con tuo figlio che ha circa 10 anni, facci una previsione su come sarà secondo te la curva fra 10 anni. Beh, spero di rivederla come 20 anni fa, ecco. Diciamo un ritorno al passato, perché era tanta roba quando si iniziava a frequentarla io, te, insomma, la nostra generazione. Secondo me se i ragazzi si impegnano e continuano questa voglia sarà sicuramente migliore di ora, e già ora vedo che di complimenti in giro ne arrivano nei nostri confronti, quindi si è retto periodi peggiori, molto peggiori di questi, e non si è mai mollato, sicché non vedo perché dovrebbe andare peggio. Grazie Demiano per questa tua risposta, e chissà, magari Giulio questa cosa la vedrà pure dietro la porta. E in conclusione io vorrei farti un'ultima domanda, e proprio anche a tutela di quello detto fino ad ora, una domanda un po' di rito per i tifosi che sono passati da qua, quindi una domanda iperatifoso. La partita o l'emozione da ultras più bella che hai vissuto seguendo i colori rosso-blu? Ce n'è una bella lista, però guarda, quella che mi rimane addosso e tutte le volte riguardo le foto della pelle d'oca è Montevarchi Spal. Purtroppo era un giorno bruttissimo perché era molto vasco e tante belle cose, però la curva era su dei livelli stratosferici, era veramente veramente uno spettacolo. E la trasferta che mi rimarrà più nel cuore è Albino Leffe, fatta in un pulmino, in un Ducato. In 5 ci siamo fatti uno sfracello di chilometri per andare a vedere la partita. Quella sì, è uno dei più bei ricordi che mi porto dietro per il momento. E tra l'altro, se non erro, stiamo registrando dell'anniversario della morte di Vasco Farolfi, quindi te giustamente l'hai citato, noi cogliamo l'occasione per dedicargli questa puntata e concludiamo qui. Ti ringraziamo, almeno io personalmente ti ringrazio tantissimo, ma credo lo farà subito dopo di me anche Fumino. Subito dopo di lui lo faccio. Perfetto. Dunque, siamo anche stavolta in qualche modo un po' arrancando, un po' insomma, però siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi salutiamo calorosamente tutti gli ascoltatori di Radio Big World e ringraziamo Damiano Borzi alias Il Pera per essere stato ospite ai nostri microfoni. Grazie infinite. Grazie a voi. Ringraziamo anche Franco Zeffirelli, il nostro regista di questa sera, e ovviamente non posso che non ringraziare il mio compagno di viaggio alla ricerca della montevarchinità, Julian Carax. Grazie per averci ascoltato anche questa volta e buonanotte a tutti. Fasciava, proviamo mezz'unghia, mezza, un pezzo d'unghia, mi sono tagliato, vedi? Con un coltello. Ah, dai, secca. Se no viene il riverbero come coi baglioni. Poi tanto è tutto registrato, quindi... Sono un fantasma, tipo. Cioè, mai baglioni stai, il fantasma di Brilli Skype. I baglioni su Skype. Questa bizzarro mix tra la sua lontananza dal microfono e il suo tono di voce. Benvenuti a tutti, nuova puntata della serie Ti racconto una storia, il volo dell'Orifò. Io ci ho fatto l'NBA in mezzo quel modulo lì, quindi nuovo appuntamento mi pare l'avete detto, quindi mi ha capito, non appuntare. No, vai, non tu continui il discorso, vabbè. E che era invivibile e inguardabile, Fumino. Cazzo vuoi da me? Cazzo, 3 ore di chiacchiere, Dio mio. Raccontate questo episodio che arrivi Fabio fa cagare, quelli di sera si sono incazzati. Ma stai dando. Ti do l'assist, che ne dici Fumino? Non so più che quando so che cazzo dire. No Fumino. No, volevo dire... Ma la radio fanno così. Sì, però sono buoni. Ero lì che dicevo, però quando me lo dirò, quando me... però quando me l'ha detto non ero pronto. Faccio mancare, mi sono scelto e parliamo. Mi lascio ce l'hanno il gioco, è per manca un gioco. Il gioco in fonte a Pisa. Ma volevo dire la torre. Il calcio a costume, la merda. Di Pisa spieghiamo Husky. No, meno male la scorsa scorta sono a Montevideo, sennò alla fine non me la menacci per davvero. Ma guarda, mi sa che l'ascoltano anche un po' più là. Allora, ragazzi, io sono... Oh, è d'altra parte. Io, ragazzi, sto registrando via Skype, vivo in Spagna. Se no, prima a cercare l'arcieri di Saracino. Ve la posso dire una cosa, però... Magari se ci scappa anche un pera, perché curva di Damiano. Ma infatti. Sanno chi è Damiano. Si è cappellato all'inizio. Ogni cardinale che entra nel conclave pensa alla possibilità che lo faranno Papa. Di Garbaico a Ole, ti ama in Icoa, oggi mi ce ne fosse poi io a Montevarchi. Oppure ti scambiai, non lo sai, Coa, c'è la fila dietro. Non posso, anche se sbagliavo dall'inizio, però non si può recuperare. Cioè, quando si parla di Damiano padre, si parla di Damiano, quando si parlava di Damiano tifoso, si diceva Ipera. Pera è Damiano padre. Rum e pera. Sono sciottino. Sono proprio politically scorrect. Madonna, che ci fanno chiudere? Ci chiudono la radio, murano la porta e la stanza. Arresta i neri. La partita o il ricordo dalla curva, che fosse in casa o fosse in trasferta, più bella che la rifò dalla partita. Ma rifà la partita, sì, rifà tutta la partita, guarda, 90 dai minuti primo, ora. Dai primo. Allora, benvenuti a tutti. E che ne pensi, Fumi? Non lo so. Buonanotte anche ai neri. Santo supplizio.